Oggi parliamo di un circo basato esclusivamente sulle qualità artistiche degli umani, senza l'impiego di animali. Uno spettacolo coraggioso realizzato dalla famiglia Zoppis da 6 generazioni nel mondo circense. Il circo magnifico acquatico della famiglia Zoppis arriva a Firenze al Mandela Forum dal 21 dicembre al 12 gennaio 2013, in un momento molto particolare. Numerosi comuni negli ultimi mesi hanno messo al bando i circhi che impiegano animali e sempre meno persone sono disposte ad accettare lo sfruttamento degli animali, schiavizzati e costretti a comportamenti innaturali per il semplice divertimento di poche persone. Se a Firenze arriva il circo tutto umano, nella vicina Scandicci va in scena in questo periodo il circo Medrano, un retaggio dei tempi passati. Abbiamo in linea Francesco Puglisi del Circo Acquatico. Nel vostro circo non utilizzate animali, come nasce questa scelta artistica? La scelta è venuta fuori da alcuni progetti che ci hanno sottoposto. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, in alcuni casi togliendo anche la circo dalla pubblicità, provando a fare qualcosa di diverso. Devo dire che i soggetti scelti e il progetto scelto ha portato un gradimento del pubblico. Se pensiamo che sono 3 anni e mezzo che questo spettacolo viene presentato in tutta Europa e ha raccolto più di 2 milioni di spettatori. Questa cosa, devo dire, è molto difficile farla capire in Italia, ma è molto più facile farla capire all'estero, nel senso che il pubblico italiano è ancora legato a una tradizione più prettamente di circo equestre, non è pronta a questo titolo di spettacoli. Devo dire che però lo scorso anno, e soprattutto l'anno prima, a Roma veramente abbiamo avuto grandissimo successo. Cosa ne pensa di posizioni come quelle espresse dall'assessore di Scandicci, Agostina Mancini, che, elogiando uno dei soliti circhi che si basano principalmente sulla presenza scenica degli animali, non vi considera un circo di fascia alta, perché diversi e non di tradizione? Secondo me, quello che dice l'assessore lo dice secondo me in maniera impreparata, perché la tradizione della famiglia Zoppis è antichissima, è partita più di 100 anni fa insieme a quella delle più grandi dinastie italiane, facendo spettacoli sia nell'arena che sotto il tendone, sia con gli animali che senza animali. Quindi voglio dire, abbiamo fatto una scelta di campo, abbiamo predisposto questo tipo di spettacoli rinunciando a qualcosa di più facile sicuramente. Siamo sicuramente uno spettacolo di serie A doppia, abbiamo richieste per andare in Brasile, l'anno prossimo andremo a Dubai, con le Wings andremo a Mosca, quindi non credo che ci sono circhi italiani che in questo momento stiano facendo delle tournée del genere. Il vostro spettacolo racconta la storia di un clown che cade accidentalmente in acqua finendo in fondo al mare, e da lì nascono le sue avventure tra le creature marine. Qual è il messaggio che lascia allo spettatore il Magnifico Acquatico? Il messaggio che lasciamo allo spettatore di Magnifico Acquatico è il rispetto della natura, del mondo, dell'ambiente marino, perché in realtà è la storia che hai detto tu, di un clown che cade nel mondo, ma può essere la storia di qualsiasi persona che va in uno di questi luoghi meravigliosi e che comincia a toccare tutto, le tartarughe, i pesci, e la natura si ribella inevitabilmente, perché la natura va rispettata per quello che è, va vista, va fotografata, ma sicuramente accarezzato tra virgolette senza toccarla. Diciamo che la storia di tutti i giorni nostri è imparare a rispettare il mondo in cui viviamo, imparare a rispettare l'acqua, imparare a dosare l'acqua, perché in realtà noi ricicliamo nella nostra piscina l'acqua, quindi non facciamo uno spreco d'acqua. Cerchiamo di lanciare dei messaggi di un futuro migliore anche ai nostri figli e ai bambini che vengono a vederci, facendoli divertire. Verremo tutti ad immergerci nel vostro magnifico mondo. Thank you. vuole ricordare l'appuntamento di sabato 15 dicembre alle ore 11 davanti alla Questura di Firenze in via Cavour per protestare contro il finanziamento della regione alla Novartis. Ne abbiamo già parlato nella puntata precedente, quindi vi aspettiamo. E non dimenticate la cena di domenica sera, 16 dicembre, alla Casa del Popolo di Settignano, la cena di Restiamo Animali. Per prenotazioni, restiamoanimali@gmail.com o telefono o sms al 347 17 05 722.